Attenzione, attenzione, canale 10, attenzione canale 10, sono io, quello di qui e qui a festa, quello con il cappellino, quello senza la testa, dovevate farmi fuori, 10 anni fa, e invece sono qui. Ehi, vabbè. Ma Gattonello, Gattonello. Chi è che parla qua? Ciao a tu, Eugenio! Buonasera Eugenio, ma dove sei? Dal camper, sto modulando dal camper, cambio! Ah, cavolo, mi è arrivato da traporto, ma zona di Sassari sei? Non ti ho capito, ma tu! Ho detto, in zona di Sassari sei? Sono... Oh, agli punti? No, sto scherzando! Sono quasi a Città Mercato, anzi Città Mercato in questo momento. Cappa, ecco perché mi arrivi così forte. E allora tu sei fatto a Ferragosto? Tutto a posto oggi. Allora cosa ho fatto? Ha giubilato la cosa, la pasta al forno. Ha giugotto i nocchi e ti ha giubilato a mare e ho mangiato con i parenti. Ma si vecchia. Andavè, va benissimo. Ma non c'è nessuno? No, non è stato nessuno, boh. Non lo so. Prova radio, hola. E avanti, hola. Ciao, Antonio. Antonio, guarda che sei andato a segnare, benissimo, buonasera a tutti. Pipole. Gappa. Mi pare che c'è Pomponio, avanti! Cappa, sei Santiago Roma, Radio 5 comunque. Cappa. Ciao Eugenio! Ho il camper! E dove è in giro? Ho appena sentito. Ma tu, non lo sento, chi è? Cappa, Pomponio è! Non lo sento, capito? Ma tu hai detto che non ti sente perché è con un'antenna più piccola, capito? Anch'io sto modulando con un'antenna di 20 centimetri. Non sei fortissimo, ma già ti sento, non è aiutino, no? Chi era quello che sta modulando? Ma non c'è la manto, faccio l'antenna più piccola. Nella zona di su, di Sassari Alto. Attenzione, 2B, 2B. Cappa, 2B. B2. Chi sei? Non sei Antonello tu? Ma stai dicendo a me? No, aspetta. Ho sbagliato. Deve essere Tino. Capo, non riuscivo a capire. No. Aspetta. Attenzione, 2B, 2B, baraccamento, camper, se ascolti Benito. Benito. Lo senti a Benito? Benito, a boccio. Capo, in ferie uscendo da una parte all'altra, in giro, me ne sto godendo quest'anno. Ha fatto bene. Sei a capo. Non ti riuscivo a capire, ma se Santiago Rome è qua, Capanto, tu 8, Santiago 8 oscillante, radio perfetta. Gappa. Aspetta che faccio una manovra, che da un po' di tempo, sennò magari mi si guasta di un casino. 2 secondi. Se farà quasi 9 a 1. Come 9 da 1? Ma stai scherzando? Adesso sì che sei. Come ti sei spostato abbastanza anche sui segnali. Aspetta che faccio una manovra, 2 secondi. Attento Benito! La radio è un asino il tuo gol. Gappa, il segnale quant'è? Segnale Santiago 3. Guarda Santiago 3. Santiago 7. Ma che poco, di meno di quello là. Bella città che cazzo, che sta cosa. Aspetta un pochino. Salli il motore. dovrebbe venire. Buonasera, non te lo dico ben sentito perché va, non so quello alternata. Alternata? Io alternata? No, ventola è, ventola è. Ah, era presentata, ventola sì, era ventola dell'alimentatore, c'ero vicino, c'era altro buonasera. No, era giusto un attimino, non ho capito bene, sembrava alternare, ma adesso mi fate il secondo passaggio, o ventole? Le ventole sono. Aumentato, Claudio. Aumentato, ebbè. se questa è più grande l'antenna, più alta, più, cioè più guadagno, più rese, ma se è un tanto eravamo a una 5 ottavi, è chiaro che se vi ho detto che avete aumentato tutti, Roberto è poco vi manca che mi arriva quanto mi arrivava a carbonati, 9,40. Antonello Pomponi 9,35, Pesci 9,25, Benito 9,10, mi arriva più forte qua che quando ero a Carbonazzi, quindi già va bene. K, adesso sono col K, sono K, adesso un segnale un po' più modesto. Sì, adesso sì, 9,15 con picchi a 9,20, volevo fare 9,25 pieno. Benito, hai capito quindi, quello nero è il Mickey Game, quello grigio è il car. Positivo. Allora, io ce l'ho tutte e due al centro, a 5, tutte e due in lineari. Siccome non c'è wattometro sullo smitter, dove si ferma lo smitter? A Santiago 5, a Santiago 7, a Santiago 9, dove si ferma? A Santiago 9, e poi va in positiva a 9,20. Ok, va bene. LC o in ALC? A fianco al processore c'è scritto LC IC 6, il pulsante dov'è? Il commutatore è su IC o ALC? Allora, ALC e IC, sì, su ALC è premuto là. No, deve mettere su IC, ALC non stai segnando quello che devi vedere nello smith, scusa Anto. IC, devi lasciarlo su IC. Guarda, ok, adesso lui o io parlo se ne va a Santiago 9 da 9,40. Cioè, torna indietro, e perché c'è picchi negativi, c'è troppa potenza, devi abbassare appena. Devi mettere il IC e poi devi portare il carrier lo devi portare a Santiago 7. Allora, IC. Dritta a Santiago 7. E stiamo andando con 30 watt, e cioè picchi positivi da 9,5 a 9,10, prima non ne avevi il picchio, e la modulazione va molto meglio. Ok, il Michelin quanto ce l'hai quindi? A 4? Allora, no, a 5, tanto erano tutti in linea a 5. Oh, così ho mandato, così l'ho lasciato. Ti metto a 6, è processore inserito. Allora, processore inserito e sto andando a 6. Adesso vai a 6. Ma c'è il dubbio. Vai Anto, cosa ne pensi, cosa ne dici? Allora, questo segnale è aumentato. Non credo che ha aumentato. La mantova l'hai tolta completamente. No, Anto, la mantova la lascio sul Galaxy. La mantova è sul Galaxy, capito? Mentre invece la Smartec e la Cipolle sul 430, perché fa da 25 a 30 MHz, hai capito? Quindi va sfrutto anche un po' in 10 metri, un po' in HF. Ah, è capo, dai. Gli andò bene. Beh, me l'ho mai detto durante lo geniale, non vuoi vincere, lo arrivo o no? Sì! Ottimo per la truppa, va bene. Posso aumentare ancora, ma no, lasciamo stare così. Vieni avanti Benin, che vediamo un po' se è migliorato. Guarda, 1, 2, 3. Sì, non è più che se ne vanno così. Vabbè, anche qua. Da 9,10 a 9,15. Prima era di 9,20, 9,10 fisso. Adesso fai 9,5 a 9,10. Però la modulazione è molto più bella. Le watt sono regolate così. Ricordati che i watt devi usarli, devi regolarli in IC. La LC serve solo per vedere i picchi di modulazione. Ok? E la bellezza del 430 rispetto ad altri radio come 440, 680 e 140 è che non distorce la modulazione. Capito? Non distorce la modulazione. Adesso ce l'ho a 3 ad esempio, vedi, sempre bella forte. Cappa, infatti è sempre bella forte, quindi ALC adesso lui mi sta segnando 1 di modulazione. Io vado a IC, adesso da 7 sale a 9 modulante. Esatto, io ce l'ho in IC e ho la portante a Santiago 7, sul parlato vado a Santiago 9. Cappa. che c'ero tanto forte, no? C'è un pochettino limite, più tranquillo. Ma io ho bevuto. No, ho detto, se qua ce l'hai, cosa mi hai detto tu, Santiago 5, Santiago 9, non la stai tirando tanto. No, no, no, no, no, sto andando con 20 fatti modulati. Cappa, forse che cosa in più? No, no, 20 fatti ancora, no, non ce n'è qualcosa in più qua, no? Sono abituato, se tiro tiro, già te ne accorgi, questa è una minima proprio cosa che sta facendo questa radio, perché non voglio farlo andare di più, capito? No, non tu, no, io. Guarda, adesso addirittura ho abbassato la potenza a 8 watt 10 modulati, guarda, vedi la differenza. Capa, ma non sto guidando a te, no, sto guidando io, sto guidando. Ah, tu, ne abbiamo già parlato. Meno potenza le date a quelle radio e più vi durano. Questo è tecnicamente approvato, perché altrimenti è un casino, capito? È un casino. Dunque, io quindi adesso sto andando con 10 watt modulati, come il segnale? Stai facendo 7-8, oscillando. Hai visto? Non va bene. Cappa di orologio, ok, va bene, è cappa dai dai. E quindi, Anto, com'è? Tutto a posto? Tutto a posto. Sì. Piano piano, tirando avanti, dai. Cappa, piano piano. Cazzo, non ho più gana, non ho più. Aspetta che passo con la mantola, faccio la differenza, a parità di watt. Allora, questo adesso sta andando con 10 watt, ok? 10 watt. Guarda il segnale, quant'è tu? 9,15 con 10 watt. 9,15. Adesso passo con la mantola, aspetta. Prova. Te ne accorgi perché ho cambiato radio. Questo è il Galaxy e sto andando esattamente con 10 watt modulati 15. Se Santiago 9 qualcosa. 9 qualcosa? E da te vieni? 3, 4? No, da me è 6, 7. Santiago 7? Ah, ci picchio. Ci picchia, vabbè, ottimo, la truffa. Ma quando metti l'altra è più forte, non vedo dove va. La differenza te l'ho detto già si sente, se una è 5 ottavi, l'altra è 7 ottavi, è già la differenza già c'è. Ti piace questa modulazione? Bene, questo è il Galaxy con tame più 3. Bene. È bella sigla. Cos'è? Molto? Ho detto che è bella sì, Claudio. No, non mi ho preso molto una sina. No, non ha detto nulla. Già, va bene, dai. No, va benissimo, va. Bene. Dove sei? Con chi sei? Sei per sì? Sono qua. Sì, comunque un po' più di... meno acutiti da questa radio. Questo è il Galaxy Saturno con tane più 3, dai. Una bella radio, funziona. Questa l'avevo presa da Danilo lo conosco, Danilo che lavora da Marcetto. No, adesso non ce l'ho in mente. Ascolta, il 140 l'hai venduto? No, quello è sempre qua sotto nell'altro repiano. Però la T250 al 430 non lo puoi attaccare, l'hai fatta la connessione? No, ho fatto la linea di tipo questo, l'altro è a parte qua. Cioè la linea del 430 come quella che c'ho io, 430, PS430, SP430, MC60, così è. Mi hanno attaccato la colonnina. Io ho la linea, anche la colonnina, SP430, PS430. Mentre nell'altra invece c'è la linea completa, giusto? No, l'altro c'è solo barattino. 50 non ce l'hai più. L'ho messo in questo. E come fate ad attaccarlo se la connessione è diversa? Di questo? No, c'è lo spinottino suo originale, l'ho collegato dietro. Quel cavettino grigio che ti hanno dato, che va dalla T250 alla radio, è uguale alla connessione dal 140 al 430. Sì, sì, non ho fatto altro. Oh, io mi ricordavo che era diverso, che era un piedino di differenza c'era, vabbè. Allora già va bene, dai. Avanti, Antu. Capa. Comunque va, andate bene, cioè, meno male che ha venito, lo risento. Ah, capo, prima non riuscivo a sentirlo. Ma cos'è la 50 questa che c'è adesso? Non lo so, è quasi simile a quella che mi ha fatto prima Luca, però questo è diverso, un po' più diverso. Allora è 50. Non lo so, è il sottocavo, la spirale, capito? Ecco. No, è già brutto, guarda. Oh, bianco un attimo. Ma c'è qualcuno in banda laterale, Anto? Eia! Ma c'è gente là fuori. Avanti il break, chi è? Mirko, io ti ascolto un po' bassino, segnale 3-4. Segnale 3-4 con la Mantova, poi magari mi fai un passaggio con l'altra antenna, vediamo se ti sento meglio. Vediamo un po' se ti ha sentito Antonio. Mirko Ranghiero, l'hai sentito Antonio? Capo, saluto che mi hai sentito Mirko. Se non c'è il tipo in banda laterale già ti sento, buonasera. Capo, stasera sei molto più basso, Mirko. Altre volte ti riuscivo a copiare meglio. Avanti qua. Ma infatti anche io. Vabbè, a me mi arriva Santiago 5 con la Mantova. Con l'altra ancora non l'ho visto. Sto aspettando che cambi l'antenna, vediamo un po'. A me mi arriva 3 qua. Prova Mirko. Guarda, sei andato da 5 a 7. Ok, prima mi eri Santiago 5, adesso sei Santiago 7. Arrivi benissimo alla grande, ok? Considera che io sto andando con il Galaxy, quindi una decina di watt, l'antenna è sempre una bella Mantova, ma ti senti anche bene Antonio, quindi problemi non ce ne sono. Avanti Antonio. Capa, sì, lo sento, però non è che lo senta benissimo io, adesso è aumentato a 4, magari ci avrebbe avuto un po' più di radio, perché non lo sento proprio al massimo. Comunque lo sento lo stesso, dai. Ma quale, la mia? Capa, che problema c'è la modulazione? Anto, c'è un rumore di alternata, tocca nuovamente quel pulsante sotto il 60. Ora. Amata di Nivaria, quella vai a essere meglio. No, c'è un rumorissimo, un rumore di alternata, quella è alternata, non è vento, Mirko, come ti arrivo io? Ora. Guarda qua, va bene? Allora sei tu. Adesso sei tu, Anto, una bomba. Capo, ne ho altro di biglia la bronosfera e goggia. Lo so, Anto, è un difetto del 60, non ti preoccupare, non si è ragione, sai che ti vuol dire culo a terra io. Andiamo a bocciculi a terra, che si faccia il 60 da voi, cosa non vedete di nato. Nel senso che lo prendo sempre, lo muovo, lo faccio, lo lubrifico, è un difetto che c'ha. Mirko, non ho capito quanto ti sto arrivando? Bene. Ehi. No, io sto andando col gas. Adesso cambio antenna. Ok, questa è la Mantova 5 col Galaxy, adesso passo col il Kenwood e una MasterTech 7 ottavi d'onda, vediamo quanto sale il segnale. Oh, io faccio quel ritirare, vado a mangiare. Buonasera a tutti, ci sentiamo alla prossima, dai, appetito a tutti. Ciao bambino, un abbraccio grande, fatti sentire, ciao. Capa, ciao Claudio, ciao Antonio Momolo e ciao anche all'altro amico, non so chi è. Ciao a tutti, quel ritirare da parte di. Non ha male, non comprendevo, c'è una leggettina, c'era la terra di accesa. Oh Mirko, come mi senti adesso? Santiago 9. Immaginati niente. Da Santiago 7 con la Mantova passo a Santiago 9 con la SmartTech. Ah, sta cosa, vabbè, c'è qualche metro in più pure. Vedi, qualche metro in più. 7 ottavi, altro 9 non te la fanno. Mi comanda quello. e poi 8 metri e 50 e poi 2 metri più della mandorla. Capito? KK, anche se è più bassa, però scherreggia forte, eh? Vero Mirko, scherreggia? Bene, bene, bene, bene. Avanti, altro riprendi, eh? Così già va bene, già, ma la sorsi. Ma la grande fa. È un'ottima antenna, no, non c'è niente da fare. Aspetta, abbassiamo un po' la potenza. Ecco qua, c'è una troppo alta, già va bene. Sì, Mirko, arrivi Santiago 7, quindi con una radio 65 con l'altra 67. Sì, no, ho abbassato un po' la potenza della radio, che stavo andando troppo alto, l'ho messa a 10 watt. Dopo lo farò a 20 watt, picchi di 40, se sono a 10, picchi di 20. E va bene, avanti a tu. K, resistenza al vento com'è, ultima? 180 km orari. 180 km orari. Guarda, come montaggio, i tubi sono in alluminio, è tutta una serie inossidabile, la J-Bot, che sono due antenne accoppiate, una da 8,50 m, l'altra che c'è a fianco, che sono accoppiate, ti mando la foto, praticamente da 2,50 m, capito? Con le barre che la mantengono in acciaio inossidabile, c'è il balum 1-1, è un'antenna eccezionale, molto molto robusta, costa 200 euro. Cappa, tipo la Grazioli, che mi stavano dicendo, dice che tutta quanta è in acciaio, cioè bullone è in acciaio. Io sto guardando quella, che poi ho visto anche questa qua, ho visto. La roba buona, ci vuole roba buona, si vede, è un'antenna sicuramente che ti dura anni. Poi tanto non vuole neanche vulcanizzata, perché i tubi sono liberi e praticamente la roba l'acquarenta scende, esce, mentre la mantola invece è un casino, si riempie l'acqua, questa no, infatti non l'ho neanche vulcanizzata, niente, tutta fascettata, con le fascette su in acciaio e basta. È tutto così. Poi quando c'è a fare montezione scendo, non è un problema, perché intanto è nel giardino, viene veramente molto bene a lavorare, l'ho piazzata da solo, mi sono fatto tutto da solo, è a 4 metri d'altezza, non è che sia, c'ha due tubi e buh, non l'ho tirata molto su, capito? Già va bene. E la Ugrevia recupera lì in altezza, sicuramente, quello che ha perso l'ha recuperato lì, perché è già più grande della Mantova. E si conferma, infatti, è proprio così, già va bene, vai. No, non mi posso lamentare, ho fatto un bel acquisto, vai. E beh, la Mantova c'ha più di 10 anni la mia, quindi la tengo perché funziona ancora bene, però prima o poi mi lascerà a piedi, allora sono già pronto. Chissà, oh, quella lì, due inocidate, è torna a puzzo, no, non è antenna che lascia a piedi. Cavolo, ce ne sono certe che hanno 30 anni, sono ancora andenti, e chissà chi va a dei zanni ti lascia a piedi, no, non vi posso credere. Niente, si usci da lì, la parte dove c'è la ventola, c'è la ventola, la spirale, quelle cose lì, quindi bisogna abbassarla, pulirla, farla. Adesso io quando l'ho piazzata, che sono arrivato qua, l'ho fatta tutta nuova, tutta lucidata, tutta messa la bulloneria nuova, fascette nuove, tutta nuova. Quindi adesso la manutenzione l'ho già fatta, capito? Già va bene. Avanti Mirko, quindi tutto procede bene da queste parti. Sì, guarda, aspetta che prendo il manuale, sì, è una Smart Tech, è una verticale J-Pole per 27 MHz, lavora cortocircuitata da 90 a 165 gradi e da 90 a 15 gradi, perché è una J-Pole, guadagna esattamente 8,30 dB. Molto di più, tiene 5 kW di potenza, i rossi sono a 0,8, neanche 1, pesa 7 kg ed è alta 8,50 m. Beh, se vedi il sistema di montaggio, vai a guardartela, è veramente eccezionale. Smart Tech. Smartec. Tu digita Smartec, ok, CH finale, Smartec, e poi digiti verticale JPOL, e te la dà. Novello 27 VJ, novello 27 VJ, capito? E ti dà questa antenna e poi vai a vedere le caratteristiche, è eccezionale. Eccezionale, veramente, proprio come montaggio, come struttura, come tubi, come tutto, è veramente molto molto buono. C'è il cambio radio, passo con la mano, con parità di potenza, perdo due segnali, quindi, anche perché a lunga distanza, è data proprio per la lunga distanza, capito, lavora molto bene a lunga distanza. Anche in città, da Roberto ad esempio, sono passato da 9.30 a 9.35, quindi va benissimo. Vai Anto. Ah, capa. Stavo dicendo, è molto pesante da montare. Aspetta, sono passato nuovamente col Galaxy, cosa hai detto? C'è molto pesante da montare questa antenna. No, 8 kg pesa. Montata in verticale 8,50 m sono 8 kg. Capito? L'ho montata da solo, Antonio. Devi stare attento che non ti si pieghi, però già io c'ho il posto, me l'ho sembrata a terra, poi l'ho infilata. C'è i cavallotti in acciaio inossidabile con le braghette, i cavallotti interni interni, tutto in acciaio inossidabile, perché è fatta veramente molto bene. KK, Mirko, così invece sono Santiago 7, confermi? Ma la batteria ti sta finendo, sento un rumore strano. A me? No, vabbè, c'ho l'altra roba, c'ho l'altra roba accesa, eh. Ah, è KK. No, no, no, non problema. Che va bene, no? Poi c'ho... Vero, vero che si muove bene lo Smith, quindi già sta andando, dai. Che anda, beh. Chi è che fischia? Oh, ma dov'è? Io Giovanni, che ore sono? Le 9, le 8. Ehi, una cosa del genere. Ma per vabbè che ore sono? Mirko, riprendi, dai. Poi già vi saluto e me ne vado a pappare. Le 20.45. Ah, ecco, 9:15, per quello c'ho fame, dai. Ok, Anto, se ci sei, a dopo. Ciao Mirko, grazie per essere entrato, grazie dei controlli. Ci sentiamo, dai. Io vado a pappare. Se c'è qualcuno, a dopo, altrimenti alle prossime occasioni. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ci risentiamo. Ciao, ciao. Ciao Mirko, ci risentiamo anche io chiudo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao Mirko, figurati, non c'è problema. A più tardi, ciao.